4 mattino. Volevo dire che siete soltanto dei garantisti degli spacciatori. La gente è stanca di vedere droga e spacciatori per strada, quindi fa benissimo Salvini a fare queste azioni. Voi siete solo a favore dello spaccio, ecco perché parlate così. Ma stiamo scherzando? Pubblica gogna basata su segnalazioni anonime dei cittadini. Ma io... è un fake. Non era Salvini, vero, quello lì? Era un imitatore. Vi prego, ditemi che era un fake. Caro Spezia, non vedo l'ora che arrivi lunedì mattina. Ah, oh, mamma mia, povero fegato, povero fegato. A chi lo dice, a chi lo dice queste elezioni in Emilia Romagna? Non ne possiamo quasi più. Ma arrivano. Come al solito, eh? Altra, sì, abbiamo. C'è Gigi, vai. Non c'è. E la cremeria? C'è, sale. Buongiorno. Buonasera. È il signor Iaia? Vabbè, insomma, mamma mia. Come al solito le campagne elettorali diventano orrende, soprattutto nella parte finale. Eh sì, non ne possiamo più. Due precisazioni: no, non era un fake. E la seconda è: no, non siamo a favore dello spaccio. Ma che cosa sta dicendo? Su, dai, siamo seri. Va bene, si fa per dire. Terza parte, seconda parte di 24 Mattino, dedicata ovviamente alla rassegna stampa. Come sempre, innanzitutto un giro sulle pagine dei quotidiani, sulle prime pagine dei quotidiani e le aperture. Quasi tutte su Di Maio. Di Maio lascia o raddoppia, scrive La Repubblica, con l'idea che si possa appunto ricandidare. Di Maio ribalta il tavolo e il titolo della Stampa. Il passo indietro di Di Maio è il titolo del Messaggero e più o meno quello del Corriere della Sera, che titola Di Maio verso il passo indietro. Il Fatto Quotidiano titola oggi Di Maio fa la mossa del cavallo. Il Giornale dice cestinato Di Maio e domenica salta tutto. Scelte diverse da Libero, che titola La sinistra tratta i migranti da schiavi. Il Manifesto, che titola Ecomostro, ma la foto è quella di Donald Trump. La Verità, le balle di Conte sulla Gregoretti. Al voto tra faccia a faccia e denunce è il titolo del Quotidiano Nazionale. Due mondi a Davos titola Avvenire. E Valute digitali, maxi alleanza tra le banche centrali titola Il Sole 24 Ore. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso. Poi nella seconda parte con Paolo Mieli verremo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, a tutte le questioni politiche. Iniziamo però da questioni che hanno a che fare con la famiglia e riguardano centinaia di migliaia di italiani, in particolare i padri separati, o meglio le famiglie di persone separate. Siamo a pagina 15 del Giornale e il quale Giornale ci racconta di una sentenza della Cassazione che è destinata a far discutere. Del resto, a chi non è capitato, non solo tra i padri e le madri separati, ma anche tra, insomma, chi invece vive felicemente in coppia e ha figli, di lasciare, di affidare per lunghe ore i figli ai genitori, ossia ai nonni. Ebbene, l'affido a un padre separato che lascia troppo tempo i figli con i nonni è a rischio. Attenzione, si legge nel pezzo, a lasciare troppo tempo i figli ai nonni se si è un padre separato che chiede l'affidamento dei pargoli, soprattutto se c'è un'ex moglie non proprio ben disposta. Per i giudici della Corte di Cassazione, infatti, non è una buona prassi delegare la funzione di genitore a mamma e papà. Non importa se ormai i nonni sono un aiuto prezioso per tutte le famiglie con bambini piccoli. Nei periodi nei quali i minori devono stare con il papà, non è possibile che siano i nonni a provvedere a loro tutto il giorno e che il genitore si limiti a vederli soltanto la sera, al momento di tornare a casa. Per la Suprema Corte è un punto a sfavore del papà separato, che chiede l'affidamento dei figli e l'accertamento da parte dei giudici e degli operatori sociali del fatto che, invece di passare assieme i momenti stabiliti, il genitore lasci i bambini in accudimento ai nonni. Però qua ovviamente dipende da che cosa fa in quelle ore. Se in quelle ore deve lavorare, ovviamente è un po' un altro conto. I giudici hanno deciso di confermare la sentenza di secondo grado e nella decisione hanno stigmatizzato la scarsa presenza del padre in casa nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie, la delega delle sue funzioni genitoriali operata alla propria madre. Secondo le toghe del palazzaccio, il papà trascorre poco tempo con le figlie, che lascia appunto con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa. Una sentenza non in linea con i tempi, secondo l'avvocato Massimiliano Gabrielli, che è coordinatore nazionale dell'Associazione Padri Separati, ma sicuramente interpretata, ma come al solito non viene riproposta al contrario verso la madre. Il tema è esattamente questo, che un padre separato, così come una madre separata, insomma, spesso deve lavorare di più per mantenersi e quindi o per mantenere la famiglia, mantenere i figli, ed evidentemente, insomma, il problema si pone. Ci spostiamo in Emilia Romagna, dove appunto insomma, si va al voto e in attesa di questo voto a Ferrara l'amministrazione leghista mette in atto un progetto che già circolava da qualche tempo ed è l'ipotesi di assegnazione delle case popolari sulla base, fatemela dire così, un po' brutta, e poi entriamo nel dettaglio, della ferraresità. Ossia, da quanto tempo sei residente in città? Il pezzo lo firma Simone Di Meo, siamo a pagina 4 del quotidiano La Verità e inizia così: prima i ferraresi, e non è un modo di dire. La giunta comunale della città emiliana ha infatti deciso di riscrivere il regolamento per l'assegnazione degli alloggi popolari, privilegiando i residenti storici, quelli cioè che a parità di requisiti possono vantare un'anzianità di permanenza più lunga. Racconta nel dettaglio Cristina Coletti, assessore alle politiche sociali con delega alle politiche abitative. Il passaggio più innovativo, dice, è l'assegnazione di 0,5 punti per ogni anno di residenza nel comune, senza limiti di accumulo, e ci aspettiamo, come è stato confermato dalle simulazioni, che questo modifichi in modo molto significativo la graduatoria, premiando le famiglie ferraresi, sottolinea l'esponente del governo cittadino. C'è un altro elemento importante, forse quello che sarà destinato a far discutere, perché ci fu un precedente su questo tema, un precedente l'amministrazione comunale non ferrarese, adesso cercherò di recuperare la città della quale si trattava, fu costretta a ritrattare su questo fronte. Per i richiedenti che abbiano maturato un debito nei confronti dell'amministrazione è prevista una penalità di 0,05 punti per morosità, ma non è questo il nodo. Particolari strumenti di verifica inoltre riguarderanno quello che nella delibera viene definito requisito della impossidenza, ovvero la mancanza di beni immobili di proprietà anche all'estero. Se prima era sufficiente un'autocertificazione, da oggi per gli stranieri sarà necessaria una documentazione originale rilasciata dal paese d'origine. Ed è esattamente su questo che si scatenò il problema all'epoca, perché insomma, molti paesi di origine non hanno anagrafi precise, non hanno documentazione precisa, e per queste persone ovviamente è molto complicato poter accedere a quella documentazione. Vedremo come andrà da questo lato. Di certo, insomma, è uno degli elementi che rientrano a ridosso delle elezioni in Emilia Romagna. Ci spostiamo sulle nostre strade, perché qua si parla sul quotidiano La Stampa, pagina 15, di una sperimentazione a Sassari che sta dando i suoi frutti ed è molto interessante. Nelle scorse settimane ci siamo molto occupati, e con dolore, dei casi di pedoni investiti da auto, in particolare di persone che avevano bevuto alla guida e che ne sono appunto sono rimasti vittime di questi incidenti. Ma ci sono anche altri casi, ci sono i casi nei quali i pedoni semplicemente non guardano quando attraversano una strada perché sono concentrati a guardare il loro smartphone. E dunque cosa succede? A Sassari si è sperimentato di multare i pedoni che attraversano la strada guardando uno smartphone. E pare che la cosa abbia funzionato, racconta Maria Berlinguer a pagina 15 della Stampa. Li chiamano smombi, da smartphone e zombie. Sono l'esercito di pedoni che ogni anno sono vittime o provocano incidenti stradali perché non riescono a staccare gli occhi dal display del telefonino. Una piaga mondiale alla quale in Corea del Sud e in Cina si sta cercando di rispondere con una nuova segnaletica orizzontale e persino con corsie preferenziali sul modello delle ciclabili. Dunque a Sassari cosa hanno detto? Hanno detto, vabbè, sai che facciamo? Gli mettiamo la multa, lo ha deciso il comandante della Polizia Municipale di Sassari, Gianni Serra, nel 2018, multe da 26 euro a 102 che in due anni hanno determinato una riduzione del 22% degli incidenti nei quali sono coinvolti i pedoni, e quindi evidentemente, almeno apparentemente, è qualcosa che funziona. Nel 2018 abbiamo fatto 150 contravvenzioni, 134 nel 2019. Il nostro obiettivo non è sanzionare ma educare, per questo riteniamo che più delle multe sia importante la campagna nelle scuole. L'altro fronte che ci porta sulle nostre strade è invece quello dei monopattini elettrici, perché qua, ragazzi, siamo veramente al delirio. Il delirio è il delirio normativo, perché qua ci sono delle persone che hanno acquistato ovviamente questi mezzi e non sanno più che cosa devono fare. Perché? Perché nei giorni scorsi il sottosegretario dei trasporti dei 5 Stelle Traversi ha detto che i monopattini elettrici sarebbero tornati in fase di sperimentazione. L'altro sottosegretario del PD ha detto che l'azione del governo e del Parlamento porterà a definire un quadro più adatto, ma nel frattempo sono entrate in vigore le nuove norme che dal 2 gennaio equiparano i monopattini elettrici alle bici, e quindi tutti con le mani nei capelli che dicono, ma insomma che succede? Siamo a pagina 17 del quotidiano La Repubblica e lo racconta bene Cristina Nadotti. Dunque, le notizie di lunedì indicavano che il Ministero avrebbe voluto inserire un nuovo emendamento all'interno del decreto mille proroghe. Ieri la correzione: sì, stiamo preparando un emendamento, ma non si cancellerà l'equiparazione. Si lavora a un testo condiviso per garantire la sicurezza degli utenti. In questo caso non si sa mai esattamente cosa vuol dire. Pezzo del giorno, se vi volete fare due risate, perché è chiaramente un divertissement, insomma, no? La vicenda è quella del vietare le sigarette alle fermate degli autobus e allo stadio, da proposta del sindaco Sala. Ne prende spunto Paolo Del Debbio a pagina 7 di Libero. Adesso Sala si occupi anche dei peti milanesi. Ogni giorno in città, racconta Del Debbio, tramite le flatulenze vengono emessi 2 milioni di litri di gas inquinanti e il sindaco deve intervenire. Fai conti. Ogni peto contiene vari gas nella seguente percentuale: ossido di carbonio 9%, metano 7%, ossigeno 3%, idrogeno 21%, azoto, molto inquinante come noto, 59%. E quindi il calcolo approssimativo ovviamente di Paolo Del Debbio è intorno ai 2, calcolando 2 milioni di residenti e persone che girano per Milano, 2 milioni di litri di gas da peto al giorno. A questo punto, in qualche modo, dice, caro sindaco, bisogna intervenire. Una pausa. Per risolvere il problema dei peti c'è una soluzione: ogni cittadino si doterà di marmitta catalitica. E vabbè, si scatena un grande dibattito su questo pezzo di Paolo Del Debbio, grande dibattito sull'inquinamento prodotto dalle flatulenze. Lasciam perdere, andiamo alle cose serie. Dunque, caro Paolo Mieli, caro direttore, eccoci qua. Dunque, aveva ragione il Fatto Quotidiano la settimana scorsa, o meglio, lo vedremo oggi se aveva ragione, nel dire che Di Maio era vicino alle dimissioni prima delle elezioni in Emilia-Romagna, dell'apertura di tutti i giornali, no? Se ricordi bene, lo dicemmo qui in questa rassegna, sui 5 Stelle il Fatto Quotidiano non va a vanvera, ha chiaramente delle fonti interne, quindi chi vuole sapere tutto dei 5 Stelle, in questo caso da un po' di tempo, grandi dolori. Anche ieri altri due parlamentari hanno lasciato il gruppo, ormai una sfilza, moltissimi hanno lasciato il gruppo, e oggi, come dice, portandosi avanti, brava Manuela Perrone del Sole 24 Ore, Di Maio verso il passo indietro, ipotesi di una reggenza Crimi. Questa volta il Sole 24 Ore di dare a dare una notizia in anteprima, questa ipotesi di una reggenza Crimi viene ventilata anche dagli altri giornali. E poi sempre Manuela Perrone, ieri due parlamentari passati al misto, altri quattro preparano l'addio, quindi non finisce. E Lina Palmerini, fuga oppure passo indietro alla vigilia del test Emilia. In effetti tutti mettono in relazione questa fuga di Di Maio. Cestinato Di Maio è il titolo di testata, sì, del giornale, Cestinato, quindi secondo, sì, il giornale hanno buttato fuori, altro che fuga volontaria. Però dico, tutti lo mettono in relazione alle elezioni di domenica prossima, dicendo siccome lì sarà un disastro per i 5 Stelle, almeno tutti i sondaggi fino a quando si potevano fare dicevano questo, allora Di Maio si chiama fuori prima, anzi, stando al Fatto Quotidiano, si è chiamato fuori prima. Ma i disastri dei 5 Stelle sono moltissimi, perché, sì, ieri avrei visto sul Messaggero, ma anche, sì, sugli altri giornali, strappo 5 Stelle sulla discarica, il primo KO di Raggi in aula. Sì. Ben 12 grillini votano con le opposizioni la mozione contro il sindaco scelto dalla Giunta. Sì. Siamo a pagina, siamo a pagina 5 del Messaggero, il pezzo di Lorenzo De Cicco che spesso cura queste cronache. Il tema è quello della discarica che appunto doveva essere identificata, era stata identificata quella di Monte Carnevale, poi appunto c'era stata la protesta delle popolazioni locali e infine questo voto in aula che appunto segna una sconfitta per Virginia Raggi. Certo, Lorenzo De Cicco ieri ha lavorato come un matto, perché ha fatto anche un secondo articolo dove raccoglie le indiscrezioni. Virginia ostaggio dei grillini, virgolette, sono stanca, basta ricatti. Quindi nel secondo pezzo di Lorenzo De Cicco sul Messaggero si dice che la Raggi è quasi, quasi, non lo farà, tentata dall'addio di mandare tutto a monte. Certo, è lo scontro, le dimissioni di Di Maio non frenano, perché fra la cosa che raccontava Manuela Perrone di altri quattro che se ne stanno per andare, altri quattro parlamentari, vorrei dare una informazione che è nota ai più, ma è bene che si sappia, finché sono deputati non conta. Conta quando se ne vanno i senatori, perché siccome la maggioranza è in bilico in Senato, è in bilico, ha solo due voti, se se ne vanno due senatori è la fine del governo Conte. Invece la maggioranza alla Camera è molto più ampia e quindi se ne vanno questi parlamentari. Alcuni sono sospettati o denunciati che se ne vadano per, se ne vadano per non pagare più quelle tasse interne, sì, che ha messo la Casaleggio, anzi sono messi da soli e non vogliono più pagare, alcuni non le pagano da, sì, un anno e mezzo. In più, dolori per il governo, prendi sempre il Sole 24 Ore, no di Renzi, niente intesa sulla prescrizione, sì, Giovanni Negri. Che cosa è successo? Che aveva trovato una soluzione, l'uovo di Colombo, il presidente del Consiglio Conte, dicendo che la prescrizione, questa legge nuova sulla prescrizione che abolisce la prescrizione, valeva solo per le condanne ma non per le assoluzioni. Renzi ha detto che è incostituzionale, Italia dei Valori dice che non la voterà e quindi siamo punto da capo, governo in terremoto. In terremoto e in tensione, ovviamente. Nel frattempo ci sono le elezioni in Emilia Romagna in arrivo, già lo dicevamo prima, con Salvini che prosegue questa campagna della quale poi abbiamo già parlato anche poco fa, no? Anche in questo caso della citofonata al presunto spacciatore, insomma una campagna molto, molto intensa quella della Lega. Sì, molto intensa e devo dire non necessaria, non mi sembra che per come si mettono le cose, mi sembra una trovata un po' estemporanea, però ognuno fa la campagna elettorale come gli pare. Ma restiamo alle cose del governo, perché la famiglia fa impazzire l'IRPEF. Sto leggendo, sì, un articolo di Marco Mobile e Giovanni Trovati sul Sole 24 Ore. Dimmi. Sì, no, è là che ti volevo portare, perché poi rischiano di rimanere sullo sfondo con tutte queste chiacchiere quelli che sono i dossier concreti. E qua, insomma, sono giorni che Enrico Zanetti, ex viceministro dell'economia, tira fuori queste cose un po' sui social, no? E attacca molto duro, e qua si fanno dei conti li fanno Marco Mobili e Gianni Trovati, che sono impressionanti. Gli autonomi lo sanno benissimo, i dipendenti spesso questa cosa non la sanno, però per il fisco italiano 20.000 euro di reddito sono tassati in maniera diversa ovviamente se sei un dipendente o un autonomo. Con 20.000 euro di reddito e due figli a carico l'IRPEF per il dipendente è di 16,8 euro, e per un autonomo è di 1.786 euro. Questo per darvi la misura, insomma, siamo nell'ordine di 106 volte in più, calcolano. Pazzesco. Sempre sul Cielo 24 Ore quell'intervista che avrei visto a Ferdinando Di Nicola, che viene qualificato come esperto ed ex super ispettore del SECIT, semplificare i panieri con prelievi al 7,5 e al 20%. Con un'IVA a due aliquote si potrebbe fare più contrasto all'evasione. Questo andava detto e lo abbiamo detto. E questo è l'altro fronte, quello dell'IVA, il traffico. E iniziamo questa seconda parte, direi, dal virus cinese, il coronavirus, che sta preoccupando. Le notizie di questa mattina l'avete sentita in GR24, ci parlano di vittime, 9 vittime complessivamente, 440 contagiati accertati. Controlli che iniziano anche negli aeroporti italiani. Ricordiamo che siamo a ridosso del Capodanno cinese, quindi i movimenti da e per la Cina aumenteranno, e quindi c'è un filo di preoccupazione. È stemperata, forse questo lo sottolineano un po' tutti i giornali, Paolo, dal fatto che la Cina, a differenza di quanto fece con la SARS, sta procedendo a comunicazioni efficaci con le autorità sanitarie degli altri paesi. Sì, questa è la vera novità politica, chiamiamolo così, di questo caso, che questa volta la Cina, mentre l'altra volta aveva tenuto tutto nascosto e l'epidemia dilagò anche per colpa di questo tenere tutto nascosto, e questa volta la Cina collabora con gli organismi internazionali, almeno quello che se ne sa adesso, anche se, come hai appena detto, vedremo gli effetti di questo morbo a Capodanno cinese concluso. Quello di collaborare o non collaborare è importantissimo, fu come per l'esplosione della centrale atomica di Chernobyl, lì la colpa dell'Unione Sovietica, che forse crollò anche per questo, siamo nella seconda metà degli anni Ottanta, fu quella di cercare di nascondere sotto il tappeto. Questa volta la Cina non lo fa, è un grande passo avanti. Voglio segnalare dai giornali anche sul Quotidiano Nazionale una bella paginata di Sara Bessi su questo tema. In realtà è una questione laterale, però rilevante, che è un viaggio nelle preoccupazioni della Chinatown più grande d'Italia, ossia quella di Prato, con 25.000 residenti cinesi registrati. Un bel racconto che mette insieme tutti questi temi, anche appunto la questione naturalmente del Capodanno cinese. Spostiamoci in Norvegia, va, perché il Corriere della Sera invece a pagina 12 ci racconta una storia che sta creando parecchi problemi al governo norvegese, ha a che fare con l'ISIS e ha a che fare con la necessità di far curare dei bambini di una combattente dell'ISIS con cittadinanza norvegese. Altro che, Michele Farina in questo articolo ci informa che per reagire a questo l'estrema destra lascia il governo, e quindi ci può essere anche una crisi di governo a Oslo. E la moglie di un miliziano c'ha un figlio malato, lo fanno rientrare. Ma perché? Perché molti giornali oggi, ti cito La Stampa, un articolo a pagina, adesso non lo so, la pagina 9, dicono che l'ISIS sta rialzando la testa e che quindi l'emergenza deve essere massima. L'ISIS crea a tavolino il nuovo califfo, un turkmeno al posto di al-Baghdadi, qui l'origine di al-Salbi, non sarebbe compatibile con le discendenze del profeta Maometto. La Stampa ci dice anche se discende o no dal profeta Maometto. E queste notizie sull'ISIS, come avrei visto, rimbalzano anche a Davos, dove c'è questo vertice mondiale. Ieri c'è stato l'ennesimo scontro tra Trump e Greta. Bravo, ma allora sei promosso, Trump e Greta, articolo di Stefano Carrer sul Sole 24 Ore, Trump rivendica i successi e minaccia nuovi dazi all'Europa, sì. Greta sferza politici e imprenditori e non fanno niente. Qui la cosa curiosa è, tutti i giornali danno grande notizia di questo scontro fra Trump, che Repubblica invece la butta su un'altra questione, i giovani che sfidano il mondo, e propone un paragone a due pagine, pagine 2 e 3, le più importanti del giornale, fra Santori, il capo delle sardine, e Greta, dice, sono un po' tantino giovani. Forse un po' tantino, no, forse. Repubblica è il giornale che più ha dedicato spazio a Santori, alle sardine, dice che così la sardina svegliò la sinistra, basta rassegnarsi e bisogna vincere. Greta, la ragazzina incubo di Trump, e quindi Santori contro Salvini e Greta contro Trump sono la cosa curiosa, sono appunto ciò che appassiona la Repubblica. La cosa curiosa è che anche il Libero mette insieme i due personaggi, ma li mette insieme in modo diverso. In negativo, ovviamente. Pescetti Rossi, questo è Santori, il capo delle sardine. Il capo delle sardine non lavora e a 32 anni occupa le scuole. Mattia Santori copia la strategia dei comunisti per fare propaganda sotto elezioni, si impossessa di un liceo a Bologna e dice agli studenti di non votare per la Lega. E Gianluca Veneziani per Greta dice: Greta, uccello del malaugurio, fra 8 anni saremo tutti morti. Uccello del malaugurio, gliel'ha detto anche Trump, sostanzialmente. Trump, profeti di sventura, insomma. No? Sì, invece di difendere la speranza, la Thunberg lancia anatemi contro. Per cui, per i lettori, chi ha simpatia per Santori e Greta, il suo giornale è Repubblica. Chi ha antipatia per questi due personaggi, il suo giornale è libero. Oppure, se mi permette, comprateli tutte e due, così vi fate un'idea più, no? un po' polarizzata dalle due parti. Prego Paolo. Visto che parliamo dei giovani, voglio dirti una notizia, pagina 23 di Repubblica: i figli di Berlusconi fanno un grande affare, entrano nella società che favorisce l'app, insomma la Grindr, l'app degli incontri gay. Sì. I figli di Berlusconi sono adesso nella società per gli incontri gay e quindi faranno la nuova... Non è male, perché c'è questa società che si chiama Bending Spoons, che ha presentato un'offerta per Grindr. Che cos'è Grindr? Appunto è un'app per gli incontri gay, quello che è Tinder per le coppie eterosessuali, per gli eterosessuali, e dunque i figli di Berlusconi sono in questa società che ha presentato l'offerta per Grindr. Niente male. Senti, visto che siamo sulla Repubblica, prenderei da qua questa questione della via per Almirante, Paolo, no? C'è questa rabbia a Verona, la Segre che dice: rinuncio alla cittadinanza, cioè o c'è la via per Almirante o c'è la mia cittadinanza, uno delle due l'una. Sì, la Segre, appunto, che era stata insignita di un titolo molto importante che lei aveva accettato, adesso dice che se c'è una via dedicata ad Almirante lei non vorrà più fare. E l'articolo c'è ovviamente su tutti i giornali, anche un articolo, il caso Mattia Zambon e Lillo Aldegheri sul Corriere della Sera, il sindaco dice che sono dibattiti strumentali. Almirante era il segretario del Movimento Sociale Italiano, fu vice direttore del Tevere e corrisponde durante la Repubblica Sociale, per l'incarico di capo del gabinetto della cultura popolare, ed era razzista, antisemita come era. Permetti prima di chiudere di dedicare un pensiero a Emanuele Severino, un grande scomparso. Hai visto, oggi ti faccio tutti gli esami. Io sono qua, mi sento come uno scolaretto oggi. Sì, li hai indovinati tutti. Per Emanuele Severino, articoli: grande filosofo parmenideo, forse il più importante filosofo italiano. Io segnalo un pezzetto, che c'è un piccolo articolo di Pierluigi Panza sul Corriere della Sera che ricostruisce la sua rottura con la Chiesa. Nel 1969 Severino affrontò un processo davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, molto interessante, molto interessante, molto curioso. Allora, grazie a Paolo Mieli anche per l'esame, che dunque spero di aver superato. Ci risentiamo. Detto, promosso. E allora basta, perfetto. Ci sentiamo venerdì, pausa GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella e con i nostri ospiti.